Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Dunque, ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. È un po' di tempo che stiamo trattando in radio delle vicende che io definisco allucinanti. Sentite questa. Il Gazzettino di Venezia del 3 aprile 2009, escluso dal coro di montagna perché nero. Accade che in un coro di montagna, il coro Amici di Montagna, Amici dell'Obante di Valdagno, quindi siamo in provincia di Vicenza, non viene ammesso un corista che viene dalla Costa d'Avorio. Il suo colore di pelle è nero. Uno potrebbe pensare, ma nell'Italia del 2009, dove oramai la integrazione razziale dovrebbe essere un dato di fatto, accadono ancora queste cose? Sì, basti pensare a quello che è successo, quelle cose ignobili accadute nella partita Juventus-Inter, in cui un italiano, come me e come voi che state ascoltando, vale a dire Balotelli, è stato insultato, a dir poco, solo per il colore della pelle. Di fronte a questa nuova follia, io ho deciso di chiamare in trasmissione Victor Nelson, che è il corista che è stato escluso. Buongiorno Nelson. Buongiorno. E ho chiamato in trasmissione anche Alberto Rasia, che è un ex corista che, fiutato il vento, capito come stavano andando le cose, ha deciso di andarsene per solidarietà. Buongiorno Rasia. Buongiorno a voi. Voglio fare una precisazione. Se n'è andato anche il maestro, e questo è un gesto meraviglioso, è come se ne andasse il capitano di una squadra quando viene commesso un gesto illecito, illegale o antisportivo nei confronti della propria squadra. Il vecchio maestro, Penso si chiama, ben felice di poter mettere questo corista nel suo gruppo, se n'è andato per solidarietà. Noi abbiamo in redazione moltissime lettere di ex coristi che se ne sono andati via disgustati letteralmente dall'atteggiamento del coro. Abbiamo chiamato anche il presidente di questo coro, ripeto, Amici dell'Obante di Valdagno. Ha detto che avrebbe consultato il suo avvocato prima di venire in trasmissione. Risultato: in trasmissione non è venuto, ma noi lo abbiamo invitato. Nelson, allora, ci racconta la sua storia, che ho definito e definisco ancora ignobile. Ho conosciuto il signor Rasia ad una festa e poi siamo rimasti amici, e così ho saputo che cantava in un coro di montagna. Allora gli ho mostrato il mio interessamento e mi ha detto: lasciami parlare con il coro e poi vedremo. E quando ho parlato con il coro, mi hanno accolto, e sono stato accolto veramente bene dal maestro, anche da alcuni coristi. Ma appena sono arrivato, ho saputo subito dopo che un corista è andato via perché non voleva cantare con un negro. Ma questo qua l'ho saputo alcuni mesi dopo. Via via abbiamo cantato insieme. Io facevo le prove perché non cantavo ancora in pubblico con loro. Ecco, io la interrompo soltanto un attimo, sì, per dire che effettivamente in queste lettere che noi abbiamo avuto in redazione, di fatto proprio c'è purtroppo quell'epiteto che lei ha detto, cioè che la facevano sentire uno sporco negro. Ecco, mi scuso, nel momento stesso in cui dico questa cosa, ovviamente riporto semplicemente questo passo e lo dimentichiamo, lo cancelliamo dalla nostra mente. Ma fatto sta che lei, Nelson, però non è riuscito a entrare in questo coro. Sì, appunto. Allora vorrei innanzitutto precisare che non sono stati tutti coristi ad essere cattivi con me. Assolutamente. Alcuni... no, l'abbiamo detto subito, l'abbiamo detto subito. Alcuni si comportavano molto male. Quando arrivavo, il minimo è di salutare, ma quando mi vedono mi tirano le spalle. Ci sono delle parole un po' offensive che fusano di qua e di là. Certo, sentivo certo, tutto, certo. Ma non ho mai fatto caso, insomma. E poi cosa è successo? Dopo alcuni mesi, andati a fare un concerto e io ovviamente stavo guardando il concerto, e dopo il concerto facevamo ancora un concertino lì per dare un po' di allegria. E così il maestro mi ha chiamato per la prima volta, mi ha detto: Vittorio, vieni qua e canta con noi. Allora, dopo aver cantato, sono veramente stato felice e nel pubblico, gente, alcune persone sono venute, mi hanno congratulato, bravo, ti piace cantare le nostre canzoni, bravo, Dio ti benedica e tutto questo. Ma a questo momento lì, alcuni coristi hanno capito che il maestro stava proprio per tirarla dentro il coro, certo. Appunto, e lì tutto è cambiato. È cambiato veramente tutto. Il finimondo, come si dice. Il finimondo, ha detto bene, certo, perché un coro di montagna che canta con alle spalle la neve, effettivamente c'è il contrasto tra un nero e la neve bianca, magari l'hanno fatto per questo, no? Ovviamente io scherzo e cerco di sdrammatizzare questa situazione che ha veramente dell'incredibile. Allora, intanto io dico questo, visto che il nostro amico Victor Nelson sa cantare, chiunque ci stia ascoltando in provincia di Vicenza, tenetene conto, perché è una persona che è venuta in Italia per lavorare, oltretutto al seguito del fratello che era gravemente ammalato. Allora, Razia, veniamo a lei. Come definiamo quello che è successo? A lei la parola. Ma io, come ho già detto precedentemente, ho definito questo episodio come una storia di puro razzismo, in quanto secondo me non ci si può comportare così con una persona solo perché di colore. E quello che io ho fatto, l'ho fatto per Vittorio, che è scuro di pelle, me l'avrei fatto per un giapponese, per un tedesco, per qualsiasi persona in quelle condizioni, in pratica, messa in seconda posizione. Certamente, ecco, questo mi ricorda tanto quello che accadeva a Torino negli anni 60, negli anni 50, quando milioni di meridionali sono saliti a Torino per lavorare alla Fiat, e ricordo perfettamente nei libri di scuola che c'erano le foto in cui si diceva: non si affitta casa ai meridionali. Ora non sono più i meridionali, anche se ovviamente il razzismo nei confronti dei meridionali persiste, cosa altrettanto indegna di un paese come il nostro, che deve essere unito. Adesso la parola meridionale la sostituiamo con la parola nero. Una cosa, Razia, io non ho trovato una parola di solidarietà tra i politici. Come è stata presa questa vicenda nella vostra comunità? Ma diciamo che io ho scritto una lettera per informare il sindaco ancora il giorno 15 di gennaio di quest'anno, una volta che sono emersi tutti quanti questi fatti. Ho cercato di informare il sindaco tramite una lettera raccomandata, ripeto, inviata il 15 gennaio 2009, e il sindaco, distante di 3 mesi, quando è scoppiata la bomba, ha avuto il coraggio di dire pubblicamente in televisione che lui non sapeva nulla, che non era a conoscenza, che ci sarebbe informato dell'accaduto, anche perché a Valdagno non c'era mai stato nessun problema per quanto riguarda il razzismo. Certo, indubbiamente, anche perché Valdagno è una città produttiva che conta moltissimo sulle braccia dei lavoratori extracomunitari, neri inclusi, e quindi sarebbe bene che si esponesse anche il sindaco. Vogliamo dirlo il nome del sindaco? Non me ne frega assolutamente nulla della coalizione politica. Nome e cognome di questo sindaco? Alberto Neri, avvocato Alberto Neri. Alberto Neri, ecco, sembra quasi un contrappasso. Caro sindaco Neri, visto che si chiama anche così, perché non partecipa alla nostra trasmissione? Se la sento, se qualcuno la sta avvertendo che c'è, sarebbe bello che ci contattasse, lo faremo anche noi, signor Neri. Così con Neri parliamo del nero. Razia, adesso come può aiutare il vostro coro, i tanti che se ne sono andati per solidarietà, Victor Nelson? Beh, allora innanzitutto volevo fare una premessa, che io non è che me ne sono andato di mia spontanea volontà, ma sono stato allontanato. Ah, fantastico. Sì, sono stato allontanato perché secondo il presidente Pietro Faccin io disturbavo il coro, ma la verità è un'altra in pratica, che tutto sto casotto è successo nel momento in cui io ho cominciato a prendere le difese di Victor Nelson. La cosa che più mi dispiace è che il presidente Pietro Faccin ha avuto la spudoratezza di dire pubblicamente in televisione che il signor Nelson non è mai stato allontanato e che loro non si sentono di essere definiti dei razzisti, quando io ho davanti ai miei occhi una lettera che è stata scritta il giorno 3 novembre 2008, vale a dire dopo un mese e più dall'allontanamento del signor Victor Nelson, dove cita queste testuali parole, che alcuni coristi dicono al presidente tramite raccomandata: siamo con questa semplice lettera a comunicarti la nostra amarezza per la decisione presa da te e dal consiglio di allontanare dal coro Amici dell'Obante il signor Victor Nelson in quanto persona di colore. Allora io mi chiedo, ma come si può dire che non è stato allontanato quando dei coristi attualmente presenti oggi 22 aprile mandano una lettera raccomandata del genere? Assolutamente d'accordo con lei, Razia. Noi per questo E anche per altri motivi abbiamo cercato Faccin, ma doveva consultarsi con il suo avvocato. Evidentemente il consulto è durato giorni, forse settimane, perché non ci ha più richiamato. Forse, chissà, Faccin è ancora riunito con il suo avvocato. Se fosse uscito dallo studio dell'avvocato, noi siamo qui a disposizione per sentirlo. Raccontata questa storia, davvero pagina nera per la nostra civiltà. Ringrazio Alberto Rasia, ringrazio Victor Nelson. Staremo appresso a questa storia, ovviamente, se ci saranno sviluppi. Grazie in regia Giacomo Spunta, in studio a Laura Faggini. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.